Ad alta voce, Valerio Binasco legge Una notte del 43 di Giorgio Bassani. Seconda puntata. Ma per rendersi pieno conto dell'imbarazzo, del sospetto istintivo che un simile atteggiamento aveva suscitato nella cittadinanza, converrà a questo punto riportarsi a quel senso di stupore, di incertezza e di diffidenza generale che in tutta la società italiana e a Ferrara specialmente era cominciato a serpeggiare fin dall'inizio dell'estate del 39. Agli occhi di molte brave persone la città si era trasformata di colpo in una sorta d'inferno. C'era stata da principio la storia degli studenti medi, non la smettevano più di ricapitolare, di quel gruppo di ragazzi, cioè nessuno al di sopra dei 18 anni, i quali, dietro istigazione di un loro professore di filosofia, certo Roccella, subito scappato in Svizzera e allo scopo preciso di fomentare panico e disordine nella popolazione, si erano prefissi il bel proposito di sfondare una per notte le vetrine dei negozi più importanti del centro. E ce n'erano voluti di appostamenti da parte della polizia, cui si erano aggiunti personalmente inquadrati in pattuglie volontarie da Carlo Aretusi, il noto antemarcia, una ventina di vecchi squadristi della prima ora per ottenere che i mascalzoni si lasciassero cogliere con le mani nel sacco. Ragazzate, sia pure, delle quali la stessa ovra, nonostante le calde professioni di comunismo degli arrestati, stava facendo sforzi eroici per ridurre al minimo il peso politico, ma che qualcosa indubbiamente significavano. Si andava verso il peggio, altro che storie. Si era circondati da disfattisti, da sabotatori, da spie. E che le cose non marciassero nel senso buono, lo si capiva, osservando le facce di certi ebrei, ad esempio, nei quali era dato ancora adesso di imbattersi in pieno corso Roma, sotto il portico del caffè della Borsa. Tutti quanti nei ghetti viceversa si sarebbe dovuto tornare a rinchiudere gli ebrei, e basta quei soliti pietismi fuori posto. Oppure quelle di alcuni dei più sfegatati antifascisti cittadini, che dal caffè della Borsa ci passavano soltanto in occasione delle pubbliche disgrazie. E infatti, eccoli, sempre là, adesso, simili ad altrettanti uccellacci di malaugurio che ci capitavano quasi ogni giorno. Soltanto un cieco non si sarebbe accorto della contentezza maligna che sotto l'abituale maschera di indifferenza sprizzava loro da tutti i pori. Soltanto un sordo non avrebbe sentito nella voce con cui l'onorevole Bottecchiari si rivolgeva da lontano al cameriere Giovanni per ordinargli il solito aperitivo. Una voce forte, calma, scandita, che faceva sussultare la gente da un capo all'altro del locale, lo scherno di chi accarezza già la rivincita, pregusta già la vendetta. E che cosa poteva mai significare quell'assurda mania di mostrarsi che aveva preso all'improvviso lo stesso Pino Barilari, se non che antifascista, sovversivo, affrettava anche lui col desiderio la disfatta della patria, nel suo ostentare senza pudore una malattia indecorosa. Non era mica da vedersi per caso un'intenzione sottilmente offensiva, provocatoria, dinanzi alla quale persino le 14 vetrine finite in frantumi sotto le sassate della cosiddetta banda del liceo diventavano uno scherzo da bambini. Queste preoccupazioni si diffusero, dilagarono, arrivarono in alto. Se non che, messo a parte di esse e richiesto di un parere dalla piccola corte di fedelissimi che gli faceva circolo attorno, Carlo Aretusi, soprannominato Sciagura, strinse le labbra, dubbioso. «Non cominciamo a esagerare», aggiunse, sorridendo, in compagnia inseparabile di Vezio Sturla e di Osvaldo Bellistracci, stazionavo ormai da 20 anni, si può dire in permanenza, davanti al medesimo tavolino del caffè della Borsa. Ed era a lui, come al membro più autorevole di quello che ai tempi delle squadre d'azione era stato il famoso triumvirato fascista di Ferrara, era a lui che le questioni più delicate venivano subito sottoposte. Incredulo, nostalgico, Sciagura continuava a sorridere. Per quanto gli altri insistessero, non fu possibile indurlo a riconoscere che nel comportamento di Pino Barilari ci fosse niente di minaccioso. Quello scarto di leva, un sovversivo, sbottò infine a ridere. Ma sei stato con noi altri a Roma, nel 22. E fu dunque così, e bisognava ricordarsene, perché nel passato ciò non era mai accaduto, che dalle labbra di Sciagura, piegate per l'occasione in una smorfia patetica, il gruppetto degli intimi poté sentire raccontare, con notevole abbondanza di particolari anche, della marcia su Roma. «Eh già», sospirò Sciagura. Aveva sempre preferito parlarne poco, lui, della marcia su Roma. «Ma perché mai?» riprese subito con enfasi. «Perché mai avrebbe dovuto perdersi in chiacchiere su un avvenimento come quello, che se per molti aveva significato la conquista del potere con relativa adeguata sistemazione personale, per lui invece e per tanti altri come lui», e qui lo Sturla e il Bellistracci tornarono ad annuire in silenzio, «aveva rappresentato una cosa soltanto, l'alt alla rivoluzione, il tramonto definitivo dell'era gloriosa delle squadracce». E poi, a guardare bene, di che cos'altro si era trattato, se non di una specie di trasferimento intradotta alla volta della capitale, con soste a tutte le stazioni per raccogliervi drappelli di camerati? Da Bologna a Firenze a quell'epoca le gallerie della direttissima erano ancora in mente dei, e un vero e proprio esercito di carabinieri e guardie regie disposto a protezione lungo l'intera linea. Non c'erano mica carabinieri o guardie regie, no, per Dio, a proteggere i 418 BL che nel 19 si erano spinti fino a Molinella, in piena zona rossa, per incendiarvi la sede della Camera del Lavoro. Impresa questa che aveva richiamato per la prima volta l'attenzione di tutta l'Italia sulla Federazione di Ferrara, e dalla quale, per essere precisi, era nato il primissimo attrito fra la Federazione di Ferrara e quella bolognese, a cui la spedizione di Molinella era sembrata, fu anche detto esplicitamente, un'ingerenza provocatoria. Il fascismo allora era anarchico, garibaldino, non si preferivano allora, al contrario di quanto si sarebbe verificato poi, i burocrati ai rivoluzionari. Se nel 19 o nel 20 il giovane Sciagura, il giovane Bellistracci, il giovane Sturla, armati soltanto di bastoni, di pugni di ferro o al massimo di qualche vecchia sipe, residuato di guerra, uscivano di notte da Porta Reno per cercar briga coi facchini comunisti che affollavano le bettole di Borgo San Luca, erano stati proprio loro, gli operai bolscevichi di fuori Porta Reno, a chiamarlo Sciagura. E lui di quel soprannome se n'era sempre vantato e se n'era sempre fregiato, come di una decorazione al valore, e figurarsi se potevano contare sull'appoggio sia pure indiretto della questura. Per cedere ai fascisti il proprio appoggio la questura avrebbe aspettato il 22, anzi il 23, quando prima di partire per qualche spedizione punitiva sarebbe diventato d'uso normale effettuare la adunata dei camion e delle macchine addirittura in castello, giù nel cortile centrale. La si sarebbe vista anche la borghesia agraria, a partire sempre dal 23, con quale slancio avrebbe fornito ai fascisti le sue di macchine, proclamandosi altamente onorata di metterle al servizio della causa. Ma per tornare alla marcia su Roma e al figlio del dottor Barilari, in fondo era risultato lui, il ragazzo, l'unico autentico divertimento di tutto il viaggio. A ripensarci, la marcia su Roma era stato proprio lui che l'aveva salvata. Intanto era sopraggiunto all'ultimo momento, quando il treno stava già partendo, al punto che era stato necessario allungargli una mano attraverso lo sportello e tirarlo su quasi di peso. Ecco qua come si vestiva poi. Portava una mantella grigio-verde, senza dubbio del padre, che gli arrivava fino ai garretti, mollettiere militari che ogni 5 minuti gli si sfilavano dalle gambe, grandi scarpe gialle, basse, e inoltre un grosso fez che calcato in testa gli combinava tali orecchie a sventola da renderlo uguale a un pipistrello. E cos'altro si poteva fare se non sbellicarsi a forza di risate, vedendosi contemplati da un paio di occhi stupiti, sgranati, neanche se lui, Sciagura, fosse stato una specie di Tom Mix e gli altri della bomba a mano, la truppa dello sceriffo. Chi sei? Non sarai mica il figlio del dottor Barilari? Qualcuno gli aveva subito chiesto. Senza riuscire a parlare per colpa dell'affanno, lui aveva accennato di sì. Ma lo sa il papà che vieni via con noi? E lui adesso faceva di no, guardandoli nel mentre, con quei suoi occhi da bambino che sta vivendo un film di avventure. Aveva 17 anni, altro che bambino. Eppure era peggio che se fosse stato un bambino. Alla sua età era ancora vergine. E siccome il treno, tanto all'andata quanto al ritorno, si fermava più o meno ad ogni stazione, siccome loro approfittavano di quasi tutte le soste per scappare in cerca di casini, e lui, Pino, sempre a fare il mulo, che nei casini non voleva venirci, finiva che dovevano tirarselo dietro con la forza. Lui resisteva, si rifiutava di camminare, li scongiurava a mani giunte, piangeva. «Ma cos'hai, paura che ti mangino?» gli dicevano gli altri. «Vieni almeno a vedere, parola d'onore che non ti facciamo andare su in camera!» Non si fidava. A un dato momento occorreva che lui, Sciagura, sorridendo e ammiccando, intervenisse a prenderlo in disparte, sussurrandogli in un orecchio qualche frase. «Proprio non vuoi venire?» gli diceva. «Non fare il fesso, dai!» Soltanto allora si decideva a entrare, anche se poi, non appena entrato insieme con gli altri nella sala comune, si rincantucciava tutto solo in un angolo. E le ragazze? Le ragazze, loro, entusiasmate e intenerite dal suo spavento, bisogna dire che per i fascisti avevano sempre avuto un gran debole. Impossibile immaginare che gare facevano per coccolarselo. A dargli retta quelle là, c'era da veder trasformato il casino in un ospizio per l'infanzia abbandonata. Ed ecco che naturalmente doveva intervenire la tenutaria. «Beh, cos'è che facciamo, signorine?» le sgridava. «Facciamo la fabbrica della flanella?» Ogni volta era una commedia, una farsa del genere. La scena madre, però, era successa agli Specchi a Bologna durante il viaggio di ritorno. Dato che la Porrettana non finiva mai, si era vista la noia all'andata. A Pistoia, prima di affrontare l'Appennino, erano scesi un 2 o 3 a fare incetta di fiaschi di Chianti. In mezzo alle montagne c'era freddo, nebbia da non vederci a 10 metri di distanza. Per consumare il tempo non restava che bere e cantare. Morale, all'arrivo a Bologna verso mezzanotte, tutti quanti, Pino compreso, erano completamente ubriachi. In via dell'Oca, da basso, premendo con la schiena il battente pieno di grosse teste di chiodi della piccola porta, si era rinnovato da parte di Pino il solito tentativo di resistenza. E allora lui, Sciagura, fosse stato l'alcol o il tedio del viaggio o la rabbia di aver partecipato a quella gran pagliacciata della marcia su Roma. A Roma c'erano rimasti 2 giorni scarsi, consegnati per lo più in caserma e senza essere riusciti a vedere il duce, né da vicino né da lontano, perché dicevano stava trattando col re la formazione del governo. A un tratto, senza sapere come, si era ritrovato con la Mauser in pugno a puntarla sotto la gola del ragazzo, che se Pino non si decideva a smetterla di piagnucolare non entrava subito, o magari, raggiunto che avevano di sopra la saletta comune, si fosse rifiutato di montare in camera con una puttana, altro che la sifilide avrebbe potuto prendersi quella volta là, seppure va un po' a saperlo se l'era presa proprio quella volta. Era stato lui stesso ad accompagnarli di sopra giusto per controllare che tutti e due compissero il loro dovere fino in fondo. E fortuna che Pino non si era opposto nemmeno a questo. E in caso contrario, ubriaco come lui era e con tanto di revolver spianato, sarebbe sul serio potuta succedere qualsiasi cosa. Thank you.